Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Tablet, PC, palmari, cellulari sono diventati compagni di vita. Con loro passiamo gran parte della nostra giornata. Siamo sempre più connessi e non solo per ragioni di lavoro. Il popolo 2.0 cresce sempre più. E sempre più legge, si informa, acquista e per fare tutto questo tiene gli occhi puntati sullo schermo. Nell'era digitale la vista è molto stimolata. Allora cercheremo di vederci chiaro insieme al professor Paolo Vinciguerra, responsabile dell'unità operativa oculistica di Humanitas, che è qui in studio con me. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, stregati dalla tecnologia, ma i nostri occhi come se la cavano alle prese con schermi di diverse grandezze, caratteri di varie dimensioni, riflessi, pixel e chi più ne ha più ne metta? Allora, cominciamo dalle buone notizie. Dalle buone notizie è che tutto sommato un occhio che guardi una cosa o guardi un'altra, il lavoro che fa è il medesimo. Quindi non c'è un affaticamento specifico se sono in vacanza in montagna piuttosto che se passeggio in città. Sì. Non è differente. Quello che invece, come hai anticipato, potrebbe cambiare è se le condizioni di illuminazione o di comfort visivo cambiano. Perché? Perché o se la luce è troppo forte e allora non c'è abbastanza protezione, o se è troppo debole, allora io non ho un flusso luminoso sufficiente a stimolare i fotorecettori, allora cerco disperatamente. Allora l'occhio cosa fa? Innanzitutto allarga la pupilla. Sì. Poi cominciano a funzionare di più altre cellule, i bastoncelli. Poi cerca di ricostituire più rapidamente i dischi che fanno parte di queste cellule. Però insomma ce la mette tutta, ma a un certo punto fa fatica. Certo. Quindi aiutiamoci. Aiutiamoci in che modo, professore? Aiutiamoci, intanto abbiamo detto, a volte vedo colleghi che hanno lo schermo regolato su una luminosità bassissima. Dico, va bene risparmiare energia, ma gli occhi non li risparmi? Cioè, e quindi tra i due? Aumenta sta intensità luminosa. Poi l'aumenti, sì, è vero, ci vedo meglio, però poi mi dura di meno la batteria. Vabbè, ricaricala. Pazienza. 800 24 00 24. Oggi vogliamo parlare con voi naturalmente della vista, ma del vostro rapporto con occhi e strumenti digitali, che possiamo, professore, anche usare per fare una sorta di autotest, un'autodiagnosi. Ce ne sono in linea, ce ne sono anche su come applicativi degli smartphone, dove uno che sono stati in origine costruiti per i medici, cioè medici che volessero in qualche modo usare, avere a portata di mano un test per le persone che incontravano, però poi hanno avuto un discreto successo. Vanno presi con una certa, facendo una tara, non è che uno si riesce a misurare esattamente la vista, cioè intendiamoci, però può essere, come dire, un campanello d'allarme per capire che se rispetto a quello che ti dicono ci vedi molto meno, forse è il momento di farsi vedere. Un'altra osservazione è il rapporto di illuminazione. Ecco, un'altra cosa che io noto molto spesso è che le illuminazioni non sono pensate dagli oculisti, spesso dagli architetti. Sì. Non in senso, no, non mi fraintendete, perché gli architetti capaci fanno degli impianti luminosi. Architetti in senso di chi, non avendo competenza, si inventa di fare qualcosa. Cioè, vediamo per esempio, per un certo periodo è venuta una moda dei faretti sui soffitti che concentravano la luce. Ora, la luce per cui l'uomo è stato progettato è una luce diffusa dall'alto, cioè il cielo e le nuvole. Se noi viceversa abbiamo un punto luminoso molto concentrato, per esempio per chi ha gli occhiali si cominciano a manifestare i riflessi, sì, e uno, a secondo come gira la testa, vede meglio, sì, vede meglio, vede peggio. Quindi intanto la luce deve essere diffusa, meglio se è indiretta, cioè una luce che viene fatta rimbalzare sul soffitto e poi scende. E poi quando guardiamo, tornando agli strumenti digitali, non è logico stare in una stanza buia in cui l'unica sorgente luminosa è il computer, è il PC. Perché? Perché nel momento in cui l'occhio guarda questa fonte luminosa, regola la pupilla in un modo. Appena va sulla tastiera o da un'altra parte, deve allargarla. Voi pensate che anni fa, nell'epoca della fotografia chimica, c'erano i proiettori di diapositive. Sì. C'era un'azienda tedesca che aveva progettato un proiettore di diapositive che lasciava una pausa buia fra una diapositiva e l'altra più breve dell'adattamento pupillare. L'avevano studiato per non affaticare la vista durante la proiezione. Che raffinatezza! Sì. Allora, proviamo anche a misurarci e a pensare se facciamo fatica a leggere i messaggi perché i caratteri ci paiono troppo piccoli, se usando il tablet ci accorgiamo di allargare le parole, se avvertiamo quel senso di stanchezza, di il famoso occhio secco, avvertiamo proprio gli occhi un po' appesantiti, come se si indurissero, molti descrivono un po' questa sensazione. Ora, speriamo che non siano induriti, perché potrebbe essere la pressione alta dell'occhio, che è un altro mondo. Però? Però quel senso di pesantezza può essere un segno di congestione locale, cioè è segno che, come hai descritto, c'è un affaticamento. Questo è già un segno. Può essere determinato dall'occhio secco. Perché? E qui rientriamo un po' in quello che avevamo discusso già preliminarmente alla trasmissione, cioè quando uno guarda qualcosa che lo interessa molto, il numero degli ammiccamenti si riduce. Sì. E ridistribuisce meno le lacrime. Quando noi chiudiamo gli occhi, spremiamo qualcuna di queste ghiandole lacrimali e quindi l'occhio comincia a formare dei punti secchi. Questi punti è più difficile ricostruirli dopo, non è che da ora ricomincia ad ammiccare e tutto si ci mette un po', quindi queste aree secche cominciano a irritare l'occhio, noi ci vediamo meno bene, quando la superficie liquida davanti non è perfetta ci si vede meno bene. Perché abbiamo proprio bisogno dell'ammiccamento, dell'idratazione giusta dell'occhio per avere una vista corretta, perfetta. Ma non solo, voi pensate un fatto, che così una piccola aneddoto per divertire chi ci ascolta. La superficie delle cellule non ha una regolarità ottica sufficiente. Allora la natura cosa ha pensato? Ci ha stratificato un liquido. Il liquido, con la tensione superficiale che ha una goccia, fa una superficie speculare, però evaporerebbero troppo in fretta. Allora, per non consumare energie, noi sopra le lacrime ci mettiamo un piccolo velo di grassi che impedisce l'evaporazione. L'equilibrio di queste cose dà innanzitutto una perfetta superficie ottica e poi evita i riflessi. Quindi quando ci manca questo, i riflessi ci danno più fastidio. Quindi ammiccare per riposare, per idratare. L'occhio ringrazia, ma questo semplice gesto, professor Vinci Guerre e care amiche, non giova solo alla vista. Andiamo a sentire la ricerca. Voi intanto provate ad ammiccare o a sbattere le palpebre e ditemi se percepite il buio oppure no. 800 24 00 24, Carmelo Lauricella, che regia la parte tecnica, sta già subito provando ad ammiccare. Fatelo anche voi, ma andiamo contemporaneamente a sentire. Sbattere gli occhi per far riposare il cervello è la conclusione alla quale sono arrivati i ricercatori giapponesi della Osaka University. Lo studio, che è stato pubblicato su Proceedings of National Academies of Science, ha scoperto che il cervello umano sfrutta queste frazioni di secondo in cui gli occhi si aprono e chiudono per rilassarsi e ricaricarsi. Il controllo dell'attività cerebrale ha permesso di rilevare un momentaneo spegnimento delle aree del cervello coinvolte nell'elaborazione degli stimoli visivi e che coordinano l'attenzione. Durante questa breve fase, secondo gli autori, il cervello ha una momentanea perdita d'attenzione e i pensieri possono vagare liberamente. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, primario, neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno, ben trovata. Ammiccare aiuta. Ammiccare aiuta. L'ammiccamento per un neurologo è una questione di straordinaria importanza. Noi controlliamo il riflesso della cornea, il riflesso corneale, perché sono due importanti nervi che lo determinano. E poi è molto importante in genere per il genere umano. Pensiamo che quando noi vediamo una persona e vediamo 100 millisecondi per vedere il volto, in 32 millisecondi gli abbiamo visto lo sguardo, ma non voglio venir meno alla domanda. L'ammiccamento non è solo un colpo di tergicristalli sugli occhi, questo in periferia senza dubbio è molto importante, ma ci dice qualcosa che c'è alle spalle. Per esempio, noi tendiamo ad ammiccare di più quando siamo più tesi, questo perché il circuito gamma, che è il circuito della preaccensione dei nostri muscoli, è attivo. E a volte ammicchiamo poco quando abbiamo una malattia, tipico esempio del Parkinson. Cosa hanno fatto gli studiosi giapponesi? Sono andati oltre, cioè sono andati oltre alle implicazioni neurologiche e motorie e hanno visto che sostanzialmente durante il battito delle nostre palpebre viene staccato il network dell'attenzione, si chiama network attentivo dorsale. Cosa vuol dire in altre parole? È come quando siamo in una riunione un po' noiosa e ogni tanto diamo un'occhiata a vedere al nostro cellulare, a vedere se è arrivato qualche SMS. Esattamente questo. C'è da dire che andando avanti nel corso della giornata, se le cose diventano noiose, questi intermezzi diventano più frequenti e più lunghi. Guardiamo sempre più i fatti nostri. Quindi ammiccare ricarica e svaga. Una cosa simile lo fa anche lo sbadiglio, professore. Ah sì, lo sbadiglio è un atto, anche questo riflesso straordinario e che rivela molto del nostro organismo. In realtà lo sbadiglio è addirittura visto come uno strumento di comunicazione che richiede una perfetta salute mentale, un perfetto sviluppo neurologico per poter avvenire. Viene considerata una comunicazione non verbale che sincronizza il comportamento di un gruppo in presenza di situazioni sgradevoli, la fame, la noia, il sonno, ma non pericoloso. Un esempio molto calzante: avete presente quando magari sei in una cena discretamente formale, fa molto caldo, il primo si leva la giacca? Beh, se la levano tutti gli altri. Questo è lo sbadiglio, sincronizza tutti, infatti è abbastanza contagioso, su una situazione di lieve noia, di lieve fastidio, ma ha una funzione empatica, cioè di collante, in questo è molto democratico. Professor Barbanti, abbiamo chiesto agli ascoltatori, prima di andare a sentire la ricerca, di provare a sbattere le palpebre, di ammiccare e di scriverci o di notare se vedevano il buio oppure no. Infatti molti mi hanno scritto al 349-238-6666: no, non mi accorgo, non vedo neanche per un istante il buio. Ed è così. È così, sa che c'è stato tutto un grande fiorire nel corso di questi anni anche di cene al buio, buio completo e così via. In realtà quando noi chiudiamo gli occhi, se mi è permesso un paragone del cervello con un commerciante, il cervello cambia fornitore, e cioè non propone più alle proprie aree associative le immagini, ma le va a pescare ad esempio nelle immagini così mnemoniche stoccate nell'ippocampo, o va a prendere le suggestioni emotive messe nel lobo limbico. Insomma, è come un commerciante che decide di non comprare più da una parte, magari in quel momento non lo può più fare, ma di acquistare e lavorare da altri fornitori: emozionali, immagini preesistenti, pensieri, musiche, odori. Tutto questo consente di amplificare il nostro vissuto. Tutto questo dietro un semplice sbattito di ciglia, eh? Esattamente. Grazie. Non solo un effetto tergicristallo. Grazie professor Barbanti. Arrivederci a voi. Occhi neri, assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi desiderati. La bellezza è cattiva, la mia strada non ci arriva e il mio amore non sa perché. Specchio dell'anima, ma anche segno di affidabilità. Per valutare una persona al primo sguardo si osservano gli occhi, perché si dice appunto che gli occhi non mentano, e sembra che gli occhi neri... mi spiace per chi ha gli occhi azzurri, siano molto più affidabili. Questa non me la sono inventata, è proprio una ricerca, non parlo da occhi neri, ma abbiamo Davide che ci chiama dalla provincia di Torino e Ciro da Napoli. Davide, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo pronti? Sì, volevo dare un suggerimento, visto il proliferare di dispositivi elettronici, tavolette, smartphone, book reader, di scegliere il dispositivo giusto per l'applicazione giusta. In particolare per leggere un libro la tavoletta secondo me non è adeguata, l'esperienza invece sulle book reader, sull'inchiostro elettronico è fantastica, esattamente come la carta. Le book reader va bene per i libri, la tavoletta va bene per altro, e questo era il mio suggerimento. Quindi il suggerimento di Davide è: acquistate e utilizzate anche in base a se siete grandi lettori, giusto? L'inchiostro elettronico vi può aiutare. Esattamente come la carta. Esattamente come la... Non affatica gli occhi e si possono ridimensionare i caratteri in funzione della stanchezza della vista. Grazie Davide. Per questo suggerimento sentiamo anche i nostri ascoltatori se hanno dei suggerimenti. 800 24 00 24. Ciro, buongiorno da Napoli. Buongiorno. Buongiorno a lei. volevo far porre una questione. Sì. Allora, io ho 10 decimi entrambi gli occhi e per questioni lavorative passo praticamente la giornata o su un libro o davanti, di fronte a un computer. E ultimamente sto iniziando ad accusare un po' di nausea dopo lunghe sessioni di lavoro. Sì. E questo Ciro pensa se questo potrebbe essere un segnale di affaticamento. Sì, è difficile così al telefono da un singolo sintomo derivare una diagnosi o un suggerimento, perché vedi, questi sintomi possono essere legati a molteplici origini, quindi non è proprio possibile dirle guardi è per questo e deve comportarsi così. Bisogna che si faccia vedere. Però ecco, ci sono dei segnali che noi non dobbiamo perdere d'occhio, soprattutto se passiamo tante ore davanti al PC. Ne abbiamo ricordati alcuni, l'occhio secco. Quali altri sono da considerare? Beh, un difetto di vista non corretto come un'ipermetropia comporta un lavoro aggiuntivo da vicino, quindi c'è anche un affaticamento. Io tornerei anche un po' su quel discorso dei tablet e degli reader. Il discorso così è mal posto, perché gli uni si basano sulla riflessione della luce e gli altri la emettono. Sì. Quindi direi che innanzitutto dobbiamo definire qual è la modalità di impiego, se in che condizioni di luce uno e l'altro. L'altro punto è bisogna sempre calcolare il rapporto di contrasto, quanta luminosità emette il bianco di uno e quanto è quella del nero. Sì. È da questo che si deriva il comfort visivo. Sugli uni e sugli altri ci sono condizioni sia di regolazione interna e sia di emissione, cioè non è che uno è che molto spesso i cosiddetti tablet vengono usati, come dicevamo prima, a risparmio di energia, sì, quindi emettono poca luce, non vengono usati a piene prestazioni. Viceversa, se usiamo un lettore, un reader in condizioni di luminosità ambientale come la luce di un abat-jour, quello non ci basta, è molto meglio che la emetta lui. Quindi, però se lo leggiamo in una spiaggia è certamente meglio un book reader. Certo. Ognuno ha un impiego per le condizioni ambientali. Comunque quello importante da sottolineare, lei ha aperto proprio la nostra trasmissione così, non ci sono rischi per la vista. No. Ecco. No. E quindi la tecnologia ha cambiato il nostro modo di vedere anche la vita si è avvantaggiata proprio grazie alla tecnologia, ma anche la vista si è in qualche modo ha potuto godere dello sviluppo della tecnologia, perché molti difetti visivi si possono ora correggere grazie all'utilizzo di strumenti sempre più raffinati tecnologicamente. Sto pensando ad esempio al laser per la chirurgia refrattiva. Professor Vinci Guerra, sono stati fatti passi da gigante. Guardi, proprio adesso io mi presenterò a un congresso in Austria e la prima parte della presentazione che farò vedere a questi colleghi sono delle immagini che in positivo ci scioccano, cioè io presenterò questa immagine a un gruppo di esperti facendo vedere due occhi e chiedendo secondo voi che differenza c'è fra questi due occhi, ma non soltanto naturalmente la foto, ma degli esami avanzati, topografia, tomografia, barometria, tutto quanto ci dà la tecnologia. E la risposta è che non si riescono a distinguere questi due occhi. E la risposta che dirò alla fine di queste prime immagini dirà uno è stato operato e l'altro no. Allora, se alla fine di un percorso chirurgico neanche un oculista riesce a dire se è stato operato o no, allora veramente la tecnologia ha fatto un passo avanti straordinario. Si arriva a questi livelli di perfezione, professor Vinci Guerra, ma ci sono delle tante persone che si sono sottoposte a un intervento di chirurgia refrattiva e invece notano delle differenze. E non sono contenti. Allora, cominciamo con ordine. Sì, perfetto, mi piace. La prima cosa è che il percorso della chirurgia viene molto spesso collocato solo all'interno del laser, della parte laser, mentre tutta la qualità diventa sempre più un fatto di percorso, dove ogni cosa è fatta al momento giusto, cioè è previsto il percorso del paziente da quando l'ha presa in carico fino a tutto il suo percorso post-operatorio. Bisogna saper dir di no, il 40% non è idoneo, io avrei voluto farlo e non ho potuto farlo, ma in febbraio opererò mio figlio, quindi queste sono le prime precauzioni. Poi il lavoro preparatorio consiste in una serie di esami a volte faticosi per i pazienti in senso di tempo, non di dolore o di fastidi, ma sono necessari. E se cominciamo a mettere questo, cominciamo a fare degli sconti sulla qualità che alla fine si esprime in un risultato meno che ottimale. I laser vanno mantenuti, i contratti di manutenzione che noi abbiamo con queste aziende sono costosissimi. Costano. Voi calcolate che un laser di manutenzione costa mediamente 100.000 euro all'anno di manutenzione, non di acquisto. Allora noi sappiamo che ci sono molti centri in Italia che non fanno manutenzioni da anni. È ovvio che se uno ha la sventura di capitare in una situazione del genere, come non può avere evitare risultato. di cadere in centri che non facciano la manutenzione? Non c'è una legge, un regolamento richiede una certificazione? Sì, i centri che hanno delle certificazioni sicuramente danno qualche, però bisogna leggere nelle certificazioni che tipo di controlli prevedano. Io penso che poi la qualità la si percepisca. Quando uno va in un centro di qualità lo percepisce dal fatto che non si è forzati a fare una chirurgia, che vengono fatti una serie di esami, che non c'è una pressione. Ecco, è molto importante gli esami che devono precedere l'intervento. Molto. Invece spesso, anche si sente dei racconti, anche dalle mail che mi arrivano al nostro indirizzo di posta elettronica, molti dicono ho fatto una visita, l'oculista mi ha detto che potevo correggere questo difetto, mi sono sottoposto alla chirurgia refrattiva e proprio sembra invece un percorso molto rapido, fatto di una visita e seguito poi a distanza di poco da un intervento. Il peggio è quando questi esami vengono fatti il giorno in cui è già programmato l'intervento. Questo dà l'idea che la vera selezione viene fatta al momento. Il rischio qual è? Che magari non tutti abbiano il coraggio al momento in cui si è dato l'appuntamento di dire uno non sei idoneo. 800 24 00 24. Come la tecnologia cambia il nostro modo di vedere e cambia anche la nostra vista. Se vi state pensando di sottoporvi ad un intervento, se avete già fatto un intervento di chirurgia refrattiva, volete parlarne insieme a noi, insieme al professor Vinci Guerra. 800 24 00 24. Mercati, meteo e poi di nuovo insieme. Professor Vinci Guerra, straordinario, vero? Eh sì. Il grande Gasman, e abbiamo anche il grande Lucio da Padova che ci chiama all'800 24 00 24. Riprendiamo a parlare di vista, di occhi e dell'importanza di seguire un percorso, professor Vinci Guerra. Questo è il messaggio su cui lei ci invita a riflettere. Tanto, diventerà sempre più il tema del futuro. Cioè, voi pensate, quando... che voi dobbiate fare una visita, che voi dobbiate fare un intervento, quello che a volte viene a mancare non è tanto la qualità della singola prestazione, ma che uno poi è disorientato perché fa un intervento e chiede ma cosa posso fare, cosa non posso fare, quando farò i controlli, che vengono spesso manifestati volta per volta. È uno che vive in una vita sempre più frenetica, fa certo. Fatica a organizzarla perché ha un controllo una settimana, poi c'hai a 20 giorni. E poi dimmelo subito. Ecco, quindi se pensate, io lo sottolineo, di sottoporvi ad un intervento di correzione della miopia, ad esempio, di qualunque cosa, oppure un intervento di cataratta, chiedete pianto. Attenzione, perché noi siamo importanti, quindi abbiamo bisogno che il medico ci prenda in carico e ci faccia gli esami giusti per evitare che poi dopo l'intervento e manifesti il percorso dopo, cioè quanti controlli avrò bisogno, in che periodo, cosa posso fare, cosa non devo fare, tutto deve essere chiarito. Chiedetelo voi, momento. Se il vostro medico non ve ne parla, chiedetelo voi. Lucio è ancora in linea con noi, sì, intanto sì, abbiamo sì, chiacchierato, sì. Lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo su questo, volevo portare la mia testimonianza per quanto riguarda un intervento a laser dei cimeli che ho fatto nell'ospedale di Campo San Piero, provincia di sì. Padova. Nel 99, voglio premettere, ho 52 anni, così il professore può farsi un'idea praticamente anche relativamente all'età anagrafica. Praticamente questo intervento del laser dei cimeli ha servito per correggere lo stigmatismo dell'occhio. È andato tutto benissimo, ovviamente nel corso del tempo ho perso la mia vista. Vedo bene da lontano, ma vedo sfocato da vicino. E la seconda cosa che volevo porre all'attenzione del dottore, praticamente il mio lavoro è quello di leggere 8 ore al giorno, perché lavoro in posta, degli indirizzi che sono piccolissimi della posta e questo praticamente sotto le luci artificiali del neon. mi può dare delle indicazioni, soprattutto se posso rifare questo intervento eventualmente per diciamo, non dico certo. Alla situazione, ecco. Ecco, perché posso, nel ecco. Tempo la nostra vista cambia, professore, cambia forse anche la vista sicuramente di chi è stato operato. Allora, la cattiva notizia è che il laser Cimeri può togliere difetti visivi, ma gli anni no, purtroppo. Se no c'è saremo un momento in cui la presbiopia arriva e bisogna rassegnarsi. E meno male che arriva, perché esatto. Vuol dire che siamo arrivati lì anche noi. A accettare una correzione vicino. Oggi esistono anche possibilità correttive miste, però non è questo l'argomento in questa fase. Ma per quanto riguarda la seconda domanda, posso rifare l'intervento o no? Non è possibile così dire sì, è ricandidabile, perché c'è un motivo per ripetere l'intervento, è cambiato qualcosa, non lo possiamo dire. In generale, però, questi interventi ben eseguiti e che consentono, come mi riporto, una buona vista lontano, specie in quegli anni, non prevedevano certo la correzione anche della presbiopia, che poi, attenzione, è un fatto dinamico. Cioè, se io a 45 anni posso avere bisogno di una correzione aggiuntiva da vicino di più 1, per darvi una quantità, poi a 60 ne avrò bisogno di più 3. Ma se io dessi la correzione a 40 anni, a 45 anni di quella di cui bisogna 60, dopo per vedere da vicino devo mettere un attaccato al naso, quindi non è neanche certo. L'ideale, quindi comunque, non pretendiamo l'impossibile. Comunque, se ci sono i prerequisiti e gli interventi di chirurgia refrattiva possono essere, specie con le nuove tecnologie, cose straordinarie. Ma nonostante questo non tutti possono essere operati. No, un buon 40% non lo può fare. Mentre per il problema della cataratta possono essere tutti operati? È un intervento che va bene per tutti? Se uno ha la cataratta, certo, sì. Certo, certo. Sì. Se questo, perché mia moglie che vede i risultati di quelli che mettono le lenti intraoculari multifocali, per cui vedo da vicino e da lontano, mi continua a dire: c'ho la cataratta per non mettere gli occhiali da vicino. Dico: non ce l'hai proprio? Porta quindi, pazienza, mettiti gli occhiali. Davide da Modena, 800 24 00 24, benvenuto e buongiorno. Grazie, buongiorno anche a voi. Io telefonavo perché volevo qualche consiglio da voi, visto che ho una grossa ipermetropia. Sostanzialmente porto una lente sull'occhio destro di più 7,25 e sull'occhio sinistro di più 8 e sto valutando un intervento di chirurgia refrattiva sostanzialmente con l'installazione di le lenti al posto del cristallino. E volevo chiedere, perché alcuni oculisti mi parlano di lenti monofocali, altri di lenti plurifocali, quindi volevo un consiglio. Grazie Davide per questa domanda. Quanti anni ha Davide? 46-47 marzo. Bene, allora, in questo caso mi sembra che la chirurgia sul cristallino non è finalizzata a togliere un'opacità ma a correggere un difetto, quindi sono chirurgie refrattive anche queste. Ma innanzitutto la candidabilità non possiamo descriverla così, ma dobbiamo capire se gli spazi anatomici, tutta una serie di misurazioni di cui non discutiamo. Torniamo alla sua domanda, le lenti. La lente che può essere impiantata dipende tanto dalle caratteristiche della cornea. Se la cornea ha otticamente, noi la misuriamo con il wavefront, che è un termine tecnico, un wavefront molto buono, cioè sotto lo 0,50, così le do un numero quindi da valutare, allora una lente multifocale può dare ottimi risultati. Se il wavefront corneale non è così buono, si somma la multifocalità della cornea a quella della lente e i pazienti non sono soddisfatti. Attenzione, per ultimo, la centratura. Queste lenti multifocali noi oggi le centriamo con dei dispositivi intraoperatori, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, in cui il chirurgo vede all'interno del microscopio dove deve essere collocata, perché quando la centratura non è perfetta le lenti multifocali possono non dare buoni risultati. Professor Vinci Guerra, vogliamo dare, dato che spesso la nostra vista la trascuriamo sino a quando non abbiamo un problema, i controlli li rimandiamo, sappiamo bene che non possiamo fare autodiagnosi, ma rivolgiamoci alle persone che non portano gli occhiali e che quindi hanno una vista, una grande fortuna. Una grande fortuna. Ci sono comunque dei piccoli segnali di cui abbiamo parlato prima della trasmissione che ci possono indicare che forse qualche cosa è cambiato. Gli anni, ad esempio, perché incidono naturalmente, e ci sono ad esempio davanti allo specchio, lei mi diceva, è importante valutare. Per esempio, quando voi avete un paziente che ha una vista non ottimale nei due occhi, voi potete notare che tende ad avanzare uno dei due lati, perché il poveretto cerca di centrare il campo visivo di uno dei due occhi sul centro, perché non collaborano nello stesso modo tutti e due gli occhi. Quindi già una testa un po' ruotata da un lato è un segnale. Poi ci sono le rughe sul viso. Ogni ruga ha un significato, per cui a me capita, guardando un paziente, diagnosticare il difetto visivo che non ha corretto bene, e poi scopro che dopo averglielo corretto con la chirurgia o con gli occhiali, queste rughe si spianano. Dove sono queste rughe? Sulla fronte? Per esempio, in mezzo agli occhi, sulla fronte, spesso se ne forma una obliqua, e molto spesso questa è un'ipermetropia non corretta. Poi l'astigmatismo dà delle altre piccole piegoline sui fianchi dell'occhio di un certo tipo, e la miopia ne dà un altro. Per cui, insomma, guardando il viso, spesso a me capita, quando sono in un aeroporto, guardo le persone e mi rendo conto che la maggior parte non sono corretti bene. Non sono corretti bene e forse sì. Non portano gli occhiali e quindi cercano di adattare comunque. Ma anche perché, ahimè, si è persa l'abitudine, che certamente comporta tempo e fatica, ma che è di fare un esame della vista in condizioni normali, poi dilatare il paziente, dilatargli la pupilla, rimisurare la vista un'altra volta, e si scoprono delle sorprese grandi. Difetti che non sono manifestati normalmente e che si manifestano con questa semplice manovra, e a quel punto diamo una correzione molto migliore, specie se insieme a questo esame facciamo anche la topografia per capire l'astigmatismo, la barometria, cioè tutte le cose che ci aiutano poi a dare un occhiale perfetto. Insomma, si dice che gli occhi non mentono, no? E il professor Vinciguerra ci dimostra che anche le rughe dicono qualcosa. È una buona notizia, possiamo dire, non sono gli anni, è un problema è di vista, è lo sforzo. A volte però sono i nostri occhi a essere ingannati, quando ad esempio percepiscono qualcosa che non è presente o lo percepiscono in modo diverso da quello che è nella realtà, perché anche gli occhi, come noi, si illudono. E in linea con noi abbiamo il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Di Radio 24. Le famose illusioni ottiche. Ce ne sono tantissime su internet, ci sono anche dei giochi molto divertenti, professore? Sì, sono molto divertenti, e quando sperimentiamo un'illusione ottica ci sembra di vedere qualcosa che c'è, che non c'è, o di non vedere qualcosa che c'è. Questo dimostra che le illusioni ottiche svelano come il nostro cervello può ricreare un mondo fisico diverso da come effettivamente gli occhi lo percepiscono, e dimostra anche che la profondità, il colore, la luminosità e le forme non sono termini assoluti, ma sono delle esperienze soggettive e relative, costruite attivamente da complesse aree cerebrali. In più, il nostro cervello ha bisogno di dare un senso alle immagini, a ciò che vediamo, per cui tende, dai segnali che gli arrivano, di ricostruire una forma, di senso compiuto. Le illusioni ottiche non danno questa possibilità al cervello, per cui ecco lì che sorge l'inganno. Professore, dicevamo che su internet ci sono tanti siti che propongono queste illusioni ottiche, alcune sono molto divertenti. È un passatempo che per il nostro cervello però può essere buono, vero? Sì, e lo consiglio anche. Potremmo ricercare queste immagini, si trovano facilmente su internet, anche su delle riviste, e allenare il nostro cervello con queste illusioni ottiche, cercando di far che cosa? Allora, partiamo intanto dall'immagine complessiva, globale, e ci rendiamo conto che c'è un inganno. Allora, focalizziamo la nostra attenzione sui singoli dettagli dell'illusione, dell'immagine, cercando di mantenere ferma la nostra attenzione su quei dettagli, in modo da svelare l'inganno e quindi vedere l'immagine per come effettivamente è. Allora, faremo questo compito, lo faremo fare anche al professor Vinciguerra. Grazie al professor Iannoccari. Grazie a lei per l'ospitalità, Nicoletta. Buona giornata a tutti. Buona giornata a lei e a presto. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Subito dopo le informazioni del traffico, spazio alle vostre telefonate, 800 24 00 24, a tra poco. E noi siamo tornati subito, molte mamme e anche un paio di papà. mi chiedono, inviandomi un messaggio, alcune indicazioni per la bambina e televisione. Ci sono dei bambini, come nel caso di un'ascoltatrice, dice che si avvicinano molto allo schermo, ma il dubbio è: ma la luce dello schermo in bambini molto piccoli può essere dannosa? Allora naturalmente il buon senso ci aiuta, perché il bambino non dovrebbe essere messo davanti alla televisione come una babysitter, come no? Davanti a un gioco o una babysitter. Ma detto questo, quando vediamo il nostro bambino davanti alla TV che si avvicina molto, è segno che non vede bene? Potrebbe essere un segno per cui non vede bene, cioè si avvicina fino a quando l'immagine gli compare limpida. E quindi o compensa con l'ingrandimento il fatto di non riuscire a distinguere dei dettagli. Quindi non va presa soltanto come un vizio da correggere, ma bisogna un po' guardarlo un po' più a fondo. A volte potrebbe essere uno dei due occhi, non è detto che sia uno solo. A volte può essere, oltre ai difetti più comuni come la miopia, l'ipermetropia, ma può essere un astigmatismo per cui apparentemente riescono a leggere, cavarsela bene, ma questo gli comporta una fatica che tendono a compensare avvicinandosi. Quindi quando ci sono questi sintomi, la prima cosa è escludere delle patologie. E Carmelo Lauricella, che è un giovane papà, mi dice: ma a che età per un controllo? Eppure lui sente essere benessere regolarmente. Una domanda che abbiamo già fatto tante volte, ma ripetita iuvant. Ma dunque, le visite si possono fare fino dalla nascita, perché abbiamo dei sistemi passivi per esaminare se la vista ha dei difetti oppure no, che è lo schiascopio, però, o gli aberrometri, però diciamo di solito i difetti, che la visita più collaborativa comincia già dai 3 anni in poi, e i genitori possono già preparare alla visita. Un piccolo consiglio: prendete un foglio di carta, ritagliateci una E in stampatello, la verniciate di nero e abituate il bambino a indicare da che parte con la manina vanno le gambine, così quando andrà dall'oculista non sarà spaventato e collabora subito. Ma fantastico, grazie di questa idea, mi piace molto. Clarissa, dalla provincia di Milano, quindi Carmelo, vai con la E e poi chiedi alla tua bambina di indicare con la manina. Clarissa, benvenuta, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Io volevo ritornare sull'intervento del laser ai cimeri. Sì. Perché ho fatto richiesta al mio oculista diverse volte di sottopormi all'intervento, e l'oculista mi ha sempre risposto che avrei dovuto aspettare almeno un periodo di un anno, un paio d'anni, in cui la mia miopia si stabilizzasse. Io ho 35 anni e ho una miopia di 6 diottrie su un occhio e 8 sull'altro, e continua durante gli anni ad aumentare. Mi piace questo ando, perché mi dà modo di combattere un approccio che non mi piace. Vede che... Che è questo. Il loculista non è un notaio, non è una persona, cioè non è un edilocudo a cui si va e dà, come dire, una prescrizione che serve a certificare lo stato di fatto. Ma noi dobbiamo domandarci perché aumenta la miopia dopo l'età dello sviluppo, cioè passato i 25-26 anni. Io devo cercare di capire perché aumenta la miopia. Perché non dovrebbe aumentare? No, non è che non dovrebbe, ci sono delle condizioni in cui aumenta, ma io devo capire qual è l'elemento. Dunque, gli elementi per cui può aumentare la miopia sono 3: cambia forma la cornea, cambia il volume o forma il cristallino, si allunga l'occhio. Questi sono i 3 parametri. Io devo identificare qual è e poi concentrare la mia attenzione per vedere su ogni singolo di questi fattori quali sono i fattori della salute globale dell'individuo che possono interferire con questa progressione costante. Ognuno ne ha. Se io vedo che cambia forma la cornea, può essere una patologia corneale e va curata. Se si allunga l'occhio, potrebbe avere un ritmo del cortisone alterato, cioè devo andare a vedere tutto. Non dobbiamo accontentarci dell'oculista che ci dice: aspettiamo che la sua miopia si stabilizzi. Beh, sì, se una bambina, ragazza a 15 anni, no, certo, ma dopo l'età dello sviluppo, che lei ha segnato intorno ai 24, 25, 26 anni, perché per certe miopie elevate può tirare 27, 28 anni, ma dopodiché, cioè, dopo bisogna ragionare. In ogni caso, però, io ho questa abitudine: quando vedo un paziente con una miopia, io faccio tutte le rilevazioni necessarie, perché dopo se aumenta so perché aumenta, a quel punto cerchiamo di combatterla insieme. Clarissa, ricevuto? Ricevuto, chiaro. Grazie a Clarissa. Barbara da Trento, poi Carla da Bergamo. Barbara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Senta, io ho telefonato per mia figlia, è una bambina di 9 anni e mezzo, che per due periodi, sempre estivi, ha avuto un ammiccamenti proprio continui che sono durati un paio di mesi come fastidio. L'ultima volta le ho dato delle goccine nell'occhio, diciamo che hanno un po' inumidito l'occhio, però mi è rimasta la curiosità di capire come mai un disturbo del genere l'ho portata dal pediatra, non dall'oculista. Sì. Che mi ha detto che non è nulla di allergico, perché però Barbara, la concomitanza del periodo l'avevo l'aveva associato. Però sì. Professore, ci sono tanti bambini che hanno il problema dell'ammiccamento, si pensa ad esempio che siano dei tic, poi l'allergia, e trovare la causa vera sembra difficile. No, ma cioè anche qui l'esame, e qua torniamo sui percorsi, l'esame Bravo. È sistematico, perché io devo intanto indagare se la causa è oculistica, che può essere, non so, una congiuntivite, un'allergia, una cheratite, posso non vederci bene, possono essere disturbi legati all'orecchio interno, disturbi dell'equilibrio, possono essere neurologici, possono essere da postura, quindi bisogna andare a vedere apparato scheletrico, cioè quando vedete, ci siamo subito ritornati, quando abbiamo una patologia e il medico se ne fa carico, deve descrivere il percorso da subito, se no che succede? Fa la visita oculistica, il oculista dice che non ha niente e lui dice mo e che faccio? E no, il percorso, cioè noi li chiamiamo quasi come l'organigramma, no? Come un albero che definisce se questo è negativo vai qua, se questo è negativo vai qua, cioè gli si deve descrivere finché si trova la soluzione, se no non ne veniamo a capo. Invece tante volte il paziente viene lasciato da solo e tutte queste dopo la diagnosi dipendono dalla sua iniziativa, capacità di iniziativa. E diventa faticosissimo. Carla da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci. Buongiorno a lei. Siamo qua. Allora, volevo innanzitutto ringraziare per la trasmissione e per l'interesse. E, io ho un problema riguardo a un bambino che ha 10 anni. E è strabico sostanzialmente, l'abbiamo scoperto quando aveva 2 anni e mezzo. Ha fatto l'occlusione perché aveva un visus molto scarso in un occhio, ha recuperato molto bene, ma ovviamente è rimasto con lo strabismo alterno, quindi alternativamente o un occhio o l'altro. In contemporanea anche una miopia, sì. Per cui porta le lenti. Il quesito è questo. Attualmente il grado di deviazione dell'occhio è basso, circa sui 6-10 gradi. C'è un oculista che mi propone l'intervento perché dice comunque riesce a ottenere in modo migliore una sovrapposizione dei campi visivi. Un altro oculista che dice non è tempo, e quindi Carla rimane spesso si sentono il secondo parere genera sempre più confusione, una terza soluzione. Io ho questa abitudine quando mi capita spesso di vedere pazienti che chiedono la cosiddetta second opinion, e io voglio condividere con loro passo passo le ragioni che hanno condotto a dare questi pareri, cioè non è che il primo abbia detto male, il secondo abbia detto bene o viceversa. E il terzo c'entra. Io dico, bene, vediamo un po' cosa c'è dietro questa filosofia di terapia. Allora, questa filosofia di terapia vuole ottenere questo, questa vuole ottenere quest'altro. Quale scegliamo insieme? E siamo ritornati un'altra volta al percorso che va condiviso col paziente perché lui capisca la strategia terapeutica e condivida quale strada è più opportuno percorrere. Siamo in chiusura di questa trasmissione in cui abbiamo sottolineato l'importanza del percorso che vale in ogni campo, non solo naturalmente per in campo oculistico. Diventare protagonisti attivi della propria salute e del proprio benessere significa anche cercare lo specialista giusto e pretendere anche dal medico un supporto e una guida. Stabilire un rapporto, una relazione. Abbiamo in linea con noi Stefano Polato. Stefano, chiudiamo con te la settimana. Sì, buongiorno a tutti. Ecco. Sì, chiudiamo la settimana mettendo in pratica. Abbiamo 30 secondi, spiegato. Se no sì, andiamo okay, poi sul allora, sito. Sì, sì, rimandiamo sul sito. In ogni caso, l'idea è quella di uno spuntino, dei crackers, dove al posto del sale mettiamo delle spezie, come abbiamo imparato in questa settimana, dei semi di sesamo e tostati e del rosmarino. Quindi niente sale ma spezie. Niente sale ma spezie. Grazie a Stefano Polato, le ricette le trovate sul sito. Professor Vinci Guerra, grazie a lei, grazie per essere stato con noi. E grazie agli ascoltatori, buona giornata. Noi ci vediamo, ci sentiamo, anzi, lunedì, buona giornata.